solo attimi che vorrei portare sempre dentro ai miei sogni e non scordarmi mai, perché quel treno non lo perderò, perderò il treno di un'estate unica e il bagaglio che pesa un'infinità, l'emozione di un viaggio che ti porterà in un mondo dove i sogni diventano quasi sempre realtà. La tua vita da adesso cambierà. Sul sipario siamo pronti, siamo qua. Vivi là, primi giorni a scoprire com'è e piano piano accorgersi che sono sensazioni di cui non puoi fare a meno oramai. Le foto scorrono nei pensieri, le facce impresse a fuoco nei cuori. Non è solo un ricordo, ti specchierai nei sorrisi che fai. La musica ti dice che ora è tutto pronto, tocca a te. Non ti deluderai, quassù sei quello che vuoi. Che tu vuoi la promessa di rivedersi qua, rivivendo ogni istante immersi tra racconti, storie ed emozioni, dagli scherzi, giochi e qualche amore. E tu adesso sei qui e senti che tutto quello che vuoi è qui con te. Non ti vergognare, no, se scenderà una lacrima, perché sono questi momenti abbracciando un amico come te, qui con te. I sogni si fanno, ed è giusto sia così, e da nessuna parte c'è scritto si debbano avverare, ma l'errore più grande che si possa fare è quello di spegnerli, non vedendoli realizzati. Loro ci sono, sempre, e devono continuare a brillare. Sono il cuore, il motore di una vita da sognare. E quando il sogno che hai in testa trova forma in un giorno di festa, è in quel preciso istante che ti accorgi che il suo nome è cambiato e lo vedi stampato dentro e fuori di te. Poche lettere, un cuore, tanti sguardi e ancor più sorrisi danno un senso alle tue emozioni, fatte di gioie e delusioni, di nottate in sogni e di rinunce enormi. Ma essere qui a guardarvi tutti dentro, uno ad uno, e regalarci un sentimento me lo fa gridare 10, 100, 1000 volte. Il mio non è più solo un sogno. La mia realtà sognata siete voi. Siamo noi. È quel cuore che da 10 anni batte ancora. La tua vita da adesso cambierà. Sul sipario siamo pronti, siamo qua. Vivi là, noi ci rincontreremo, sai, dal vivo nei ricordi miei. Un sorriso dura un attimo, ma nel cuore sa essere eterno, lo so. Sì, lo so.